sollevando questo. 1, 2, 3, prova radio, prova. Urdu. Ehi, anche io sto provando. Sto provando, sì. Perché? Boh, io non sto capendo più niente tra amplificati, spezzoni, lineare, non lo so. Non sto capendo niente. Avani poco tutto, tanto propagazione italiana non ce n'è. Non lo so, non so se c'è un difetto, cacchio ne so, va bene, niente di che, Claudio, vai, continua. No, no, mi servi tu. Sto andando con le 7920, sto andando con le 7920, e allora mettiamo così l'amplificazione. Le 7920 è la IESO, il microfono è MC60. Sì, tolgo la N e l'NB, se c'era anche quello, vai. Guarda, adesso la modulazione è buona, tieni conto che questo è quel cazzo di microfono, quel cazzo di microfono di merda. Però non è male la modulazione, no? Vabbè, non è calda come quella del K, più... Vabbè, conta che sto usando il McKinley, che già è ambiguo di suo. Vabbè, io sono in cuffie, il gain ce l'ho a metà, così lo metto tutto al massimo. Forse è meglio da più tonalità, no? Guarda se va meglio, Marco, così, come tonalità, che sono dentro il menu della radio. Tonalità questa è, mi sembra alta. E questa è la tonalità medio-bassa dell'equalizzazione, sempre della radio, e questa c'è tutto incorporato. Va meglio così, con questa tonalità, oppure va meglio con quest'altra tonalità? Sì, poco me ne accorgo, poco. Se c'ho l'altoparlantino frontale, ma è piccolo, preferibilmente io metterei il medio basso, perché questa è un po' più acuta è abbastanza più acuta rispetto al K, capito? Quindi ben vengano le tonalità medio basse, almeno con questo baracchino da pochi soldi. Quindi praticamente questa tonalità qua, questa qua, anziché questa qua, anziché questa, che no, questa è quella medio bassa, così è. E poco variami, orecchiometro, così. Ehi, vabbè, tieni conto questo microfono, lo sto lì così, conto. Ora. Ora, io pongo le batterie dentro, mi ha rompito le balle, elimino il circuito, che è il giramento di balle. Va bene, anzi va male, se non c'è più radio, guarda. Io la sento lo stesso. Mi chiedevo se fosse un rientro questo che sentivo io, boh. Non lo so, secondo me il mic. Non così, non in condizione normale, ma è un altro passaggio. Guarda se senti rientri, se senti qualcosa di strano, qualsiasi cosa. No, assolutamente no. Lascia la portante che è comodo tra questa digitale e il 140, per essere giusto lo Smith. Ma da liscio meglio? No, da attaccato. Ancora un po'. Ancora? No. C'è appena di differenza, proprio un pelino di differenza, devo fare qualche regolazione, vabbè. Ora, qua, adesso è aumentata la radio, qua. Adesso è aumentata la radio, qua. Ha ragione, amico, il microfono, guarda. È acuta, un po' acutina, così. Vabbè, comunque se mi dice va tutto bene, solo che mi trovo male, se ti spiego, questa manopola di canali, chiamiamola manopola, è piccolina, è piatta, devi fare un pochino in fatica a fare zapping continuo, no? Soprattutto quando ascolti, che ne so, bande, tripla 5, bande amatoriali. quando io metto questo preamplificato non c'ho il microfono up down, quello invece per fare zapping è eccezionale, vai avanti e indietro velocissimo, invece qua si manopola di canale, è una checchia, non è come il 3009, è piatta piatta, fa un bel di fatica. E vabbè. Lo so. Ora, 1, 2, 3, prova radio, prova. Ma io devo capire se lasciarlo così, metterlo così, ecco, forse è meglio così, oppure chiuderlo così, non so. Devo vedere, dai. Devo vedere come fare, perché in banda laterale questa radio è fantastica. In AM per com'è già modula bene. Sì, vabbè, timbrica diversa rispetto al coso. Comunque, se tu sai che in un passaggio da un po' più di bassi, tu mettili, male non fanno, perché sennò è un po' acutina, va bene. Ti voglio chiedere, Claudio, ma rispetto a prima, comunque tu hai una differenza, parlo di liscio, no? di segnale abissale rispetto a quando eri a Carbonazzi, ma quanto sei lontano da Sassari rispetto a prima? Prima liscio, ma liscio ti parlo di 4, 5, 6 watt, eri tipo 9,20, liscissima, è proprio 4 watt, 5. Adesso liscio sei intorno a 9, massimo 9 più 5 da liscio. Io sto usando 20 watt qua. 20 watt con 9,20, sono 5 km da dove ero prima, anzi da dove ero prima sono 6 km, ma devi tener conto che io so se non lo vedo, io sono praticamente dietro Monte Bianchino, diciamo, dietro Filighetto, dietro quella zona, non lo vedo Sassari, quindi è già troppo quello che faccio dentro Sassari, che poco mi interessa, Marco, ma fuori Sassari, Alghero, tutti i paesi, Borgo Torres e tutte quelle zone, arrivo quanto arrivate voi, se non meglio anche. Sì, se sei in alto meglio, ma tu sei addirittura più lontano dal centro ecologico, proprio il centro ecologico. Sì, sono più lontano sì dal centro ecologico, io sono molto più giù. Di cacchio, ma salendo naturalmente, zona alta, vabbè, comunque non è un problema, in città anche con un watt parliamo tutti, anche con mezzo watt se vuoi, anche con 100 milliwatt, una volta avevo fatto la prova con 100 milliwatt, avevo messo un watt più l'attenuatore e parlavo con tutta Sassari con 100 milliwatt o poco più. Vabbè, infatti adesso stacco tutto, per oggi mi sto esaurendo, c'ho un mal di testa, ma sotto strano mi sento, sarà il tempo che cambia, boh. Boh, non lo so, infatti arrivo meglio agli punti che da te, arrivo molto meglio agli punti che da te, arrivo più forte da Massimiliano che da te. Sì, sicuramente sei più aperto per loro qua. Questi Smith, no vabbè, già sono tutti equivalenti, però io continuo a preferire quello del 3009, è più generoso, poi questo, proprio questo che ho adesso, il 9 c'è scritto, mi pare di dire dalla fabbrica, allora il Santiago 9 l'hanno tarato a 100 microvolt, quando in realtà dovrebbe essere 50 microvolt, quindi è secco, è più sordo come Smith, conta che ha le LCD, capito, LED, come lo chiamate? Sì, sì, è molto più... No, questo è digitale, non è a LED, questo è digitale, per quello che ho detto, metto la portante perché volevo vedere se c'era differenza al 140, ma è proprio un pelino, infatti non la tocco, la lascio stare così. Qua in digitale sei 9,20 pieno, là sei 9,18 e qualcosa, dai, ma non la tocco. Ehi, adesso comunque stacco tutto perché veramente è scandaloso, non ha senso, cioè, si è provato a chiamare, rispondono, Germania, cosa, però se non c'è la lingua compatibile, così potrebbero essere 3, 2, non lo so nemmeno, non c'ho wattmetro, se metto il wattmetro è peggio, ogni spezzone che metto è peggio. A proposito, stasera ho sentito Natalino, stava provando un altro apparecchio e certi momenti scompariva proprio a tratti, praticamente c'era uno spezzone che proprio lo faceva sparire, probabilmente il centrale non toccava. E io gli ho detto la stessa cosa che gli avevi suggerito tu, giustamente: metti l'antenna diretta, non i buoni 10.000 strumenti a correttori, antenna diretta. Ma io quando dico le cose a me non mi ascoltano mai. Non ci vuole niente con quella radio, capito? Io con la radio che c'è lui non ci avevo assolutamente niente, perché è tutta sotto controllo. Ci sei, Natale? Peter che disegna lo smitter normale, ok? Poi sotto c'è la scala dei watt e sotto c'è la scala del power del PVR, quindi cosa ne fa degli strumenti? Non serve a niente. Sì, poi con l'antenna stazionaria non ne ha, quindi è inutile che metti gli strumenti per vedere che non hai stazionarie, si sa già. Ma poi con rischio anche se gli manca proprio, passava a zero mi attratto, da fondo scala a zero, con rischio di bruciare la radio. E che radio, hai capito? Lo so, aspetta che sto prendo nuovamente il microfono, dammi un secondo. Sì, fai. Natalino, ci sei? Oh, io non vedi nessuno. Non so cosa cucinare a cena stanotte, non c'ho fantasia, ho già avuto un'idea. Dammi un'idea. Io sto facendo pennette e cacio e pepe. Tipo maccheroncini alla parmigiana, visto che Peppe e mamma non le può mangiare. E mi sa che faccio una cosa del genere. Oppure passa al burro col parmigiano. Buono, buono. Ehi, aspetta un secondo. Il pepe già me lo pongo io, che lo posso mangiare. Dimmi. Allora, così è a zero, e così invece in posizione amplificata. Così va bene la modulazione, no? Vabbè, per me anche prima, Claudio, non è che... Te l'ho detto, al tuo parlantino frontale, ma sai quanto è largo? Due dita, cioè... Questo altoparlante, staccali dai, sì, ci suona benino, però non 3009 c'è un'altra timbre. Guarda, a me andava bene prima, va bene adesso, ci vuole un orecchio più affinato, Claudio. Vabbè, dai. L'importante è che vada, questa è una radio che non è adatta per fare queste cose, capite? Vediamo, mettendo così, non mi piace, invece così, ecco qua, 1, 2, 3, 4, così va bene, dai, ottimo per la truppa, va bene che va bene. E tu ti stai ascoltando in cuffie, perché qua la differenza giumai non la percepisco. Poi c'è questo ricevitorino che è poggiato a terra, no? Un po' distante. E quindi sento queste vocine da oltretomba, mi pare la VHF, cos'è? No, io mi sto ascoltando col moni della radio. Mi sto ascoltando col monitor della radio, c'è scritto moni, pigio, vedi? Ecco qua. Col moni della radio sono in cuffie e sempre... Ehi, l'adattatore mi dovrei mettere anch'io. Porca miseria, mi si è mangiata la spugnetta delle cuffie. Lo sai, dopo anni scommetto che non ne trovi ricambi. Tanti anni fa c'era radio, va, persino le spugnette per microfoni, per cuffie, non di ricambi. Adesso forse da internet, dalla Cina, ma quasi quasi ti costano quanto le cuffie nuove. Lo so, allora così siamo i moni, cazzo, devo sollevare il volume, questo no, sto a sollevare qua per i moni, gain, forse è questo, eccolo qua, cazzo di gain delle cuffie, va bene, ottima modulazione. Comunque è uno stress mi cambiare anche il baracchino, ognuno ha la sua timbrica. che ne so, anche quando mi chiedono il segnale com'era rispetto a ieri, rispetto all'altro ieri, e dico, ma io ci avrò 11 baracchini, 12 mi pare, siamo arrivati a 12, ogni giorno ne cambio uno, figurati come faccio a sapere come arriva ieri il segnale, l'altro ieri. Come fai a saperlo? Non è che lo puoi sapere così, no? Oh, vabbè. Allora, passiamo leggermente così invece, che secondo me fa molto meglio. Ecco qua, così è regolato anche con la banda laterale, la lasciamo stare così. Per me va bene così qua, non cambia, va benissimo, alla grande. 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio. Secondo me va meglio così, no? Meno amplificata, meno acuta. Claudio, se vuoi io ti faccio un breve video, ti faccio sentire come arrivi qua. Naturalmente c'è un piccolo decadimento dovuto al microfonino del cellulare e poi anche all'altoparlantino del tuo cellulare quando lo ascolti. No, non c'è problema, già va bene così, se no lo lascio così qua. Lo lascio stare così e va più che bene, ottimo per la truppa, senza nessun problema, figurati, ok. K del Rogero, questo invece lo mettiamo così, anzi no, questo lasciamo così, ecco qua. Già va bene, dai, giusto per farla andare un pochino questa radio, perché io la uso solo in 10 metri, capito? La uso molto poco. Ah, a proposito dei 10 metri, no, ho dato un'ascoltatina. Allora, in 10 metri senti i segnali dei radioamatori, però è pulita, cioè come QRM è pulita, una fogna, è proprio in 27 la fogna, una fogna, proprio QRM, segnalini su segnalini, 10 metri almeno è pulita. Pulita, cioè segnali puliti, intelligibili, perfetti. Glielo credo che è così, alla grande. Ascolta, prova ad andare in FM, un secondo, voglio vedere se mi senti bene in FM. Sì, aspetta che ti abbasso il mic, vai. Test 1, 2, 3, prova, ho messo il mic quasi normale, vedi, vai avanti. Allora io invece non ho toccato niente, sempre solito Mickey Gain, il compressore non ce n'è in AM, quindi sta andando solo la radio, com'è? È un bel vocione, forse meglio meglio dell'AM quasi, più bassi, più toni bassi, e devo abbassare anche il volume, lo sai da quanto è forte. Va bene, ma in FM, tieni conto che c'è 100 watt in FM questo, e li sta dando tutti, vediamo se regola, alla voglia, vabbè, fino a zero li porto, adesso 50 watt, 25 watt, 10 watt, 10 watt, 10 watt, 5 watt, 5 watt, 10, 25, 50, 100 watt. Ehi, sì, più calda qua, più toni bassi, in AM era più acuta, qua è proprio un vocione, mi. È bella, la mia è normale, dico normale come modulazione, spero non stia strappando. No, perfetta. Ascolta, puoi fare l'ultima prova, poi vado a mangiare in banda laterale in USB? Sì, allora, Uniform Santiago Banana. Sì, Uniform Santiago Banana, prova. Vai. Vediamo un po'. Mamma mia, spero di non dare troppi watt all'apparato. Vorrei bypassare quasi bypassare linea retto, no, forse non c'è bisogno. Aspetta, comincio appena, ola. Fai un passaggio lungo. Sei centratissimo, minchia, sì, perfetto, vai, questo non sbaglia, è 27.075, decimale 00. Senti come rulla in banda laterale questa radio. Spettacolare. Io non mi sento, vabbè, poi qua sono al minimo di watt, perché se sbaglio a dare batte crepo l'ingresso del lineare che è spento comunque, però dicono anche da spento di non saturare con i watt, aspetta che alzo, di non saturare con i watt, se no lo si crepa l'ingresso. Bene, va bene, sono contento. Questo è il presidente McKinley. Ecco, questi rispetto ai 3009 che sono tutti sballati in frequenza dalla fabbrica, questo esce già centrato in frequenza. Una cosa positiva è che gliela fanno la centratura, almeno quella. Cazzo, ma sei perfetto, cioè veramente, veramente ad hoc, veramente perfetto, K. La mia è molto buona con la modulazione, mi sto ascoltando sempre il monitor e va molto bene, va molto bene. K. Ripassa M. Prego. Prego. Sì, aspetta che passiamo in AM. Aspetta, ascoltami un attimino, come va questo, il 940 qua? Perfetto, centrato alla perfezione, questo è l'effetti 920 con l'MD100. È bella forte, sì, questa vabbè, 940 già va bene, ma laterale. Era grande. Passiamo in AM che c'è qualcuno che ha chiamato, dai, così poi vado a mangiare. Ho detto vi sento bene entrambi, per Claudio c'ho il clarifiere in posizione centrale. Ah, perché io lo sono centrato gira gira? Chi è più centrato? No, io sono perfetto, sono 7500, anche tu Robert. È già un grido, questo è perfetto, ho passato delle prove, infatti molte volte qualcuno che l'ha ascoltato glielo dicevano, è perfetto questo. Figurati, questo che è digitale, perfetto. Passiamo in AM, dai, che ti faccio sentire la modulazione in AM qua, dell'effetti 920. Sì, ma io sono centrato. Via, perfetto. Eia, stai uscendo perfettamente. Io come sto andando in AM? Vabbè, ti sto ascoltando con un'altra radio, comunque ti ascolto benissimo. Con la tua parlante del 940 ti ascolto molto bene. Bene, bene, bene. E questo è l'FT 920 con l'MD100. Tieni conto che in AM questo non ha, lo IAISO non ha il compressore, non agisce il compressore, solo in banda laterale. Quindi per non avere il compressore sta andando anche troppo bene. C'è o portante o qualcuno che vuole entrare. Io sto uscendo con il dipolo, quindi in orizzontale sono. Già va bene, non ti preoccupare. Ti stavo dicendo se questo, allora questo è senza amplificazione e così è con l'amplificazione. Funziona bene. No, ti ascolto, ma intanto la cosa strana, c'avevo il dipolo degli 80 metri accordato e mi si sono abbassati i segnali e adesso sono col dipolo accordato a quello dai 40 metri, che fa dai 10 ai 40. Esco più forte col dipolo degli 80 metri, ci ti rendi conto? È così, non vedo dalla mano. Va bene, dai, comunque io vi lascio che vado a mangiare, se mi dite che qua è tutto a posto lascio tutto così, ok? Molto ci ha abbassato il segnale qua, da come lo prima. Guarda, sei 9 più 10, prima arrivi 9.30, una cosa del genere. Figurati, tu stavi arrivando 9.30 in orizzontale col dipolo, perché adesso vi siete abbassati tutti, almeno Marco non lo so, tutti si è abbassato a 9.05, sì. E poco fa aspetto, ma ho girato diciamo, il dipolo degli 80 metri collegato. Quello degli 80 va meglio di quello che arriva fino ai 40 come potenza, infatti me ne sto accorgendo rendimento. No, già va bene, non c'è problema, dai. Va bene ragazzi, io vado a cenare e ci sentiamo dopo se ci siete. Dai, vado a cenare, grazie Marco per le prove e grazie anche a Roberto. Ok, ci sentiamo dopo. E buona cena, ciao Coso, ciao Claudio, ci sentiamo. Vai Marco. Gente mala. Ciao tu, molto basso sono. Santiago Rover Radio 5. E Marco da te? Allora, Smith LCD 9 più 10, però questo è secco, dovresti essere un più 20 al normale apparato, K. Allora, guardate, memorizzate questo segnale qua, adesso cambio antenna e mi dite cosa succede. Un attimino, un secondino. scappa, c'era un uno col bip in banda laterale che chiamava, ma era completamente fuori. Chi era? Ero io, Marco. Tu eri fra. Caspita, ma fuori di brutto, proprio cupo cupo, eri tipo Invece, vabbè, Claudio perfetto perché aveva quello che aveva. Roberto, non ne parliamo. No, io invece mi ascoltavo benissimo, tutti e due eravate centrati, cioè diciamo tutti e due sulla stessa frequenza, voi due. Io mai sono fuori perché questo vuole tutto tarazzo, eh. E chi è? Roberto, prova Robè. Guarda adesso. Premi la portante. Cambiato qualcosa? No, ma qua è LED, LCD, Robè, cioè questo fa più 10, più 20, più 30, non ha variato. Cazzo. Da te a tu? 9 qualcosa. Perfetto, 9 qualcosa. Vabbè, dai. Ho raccordata con l'antenna, no, ma stavo facendo anche con questo dei 40 metri, stranamente, non pensavo che lui si sa accordare, ho preso di più, mi è questo. Ok, stazionale non ne ho niente comunque, uno e uno neanche, manco si muovono. Cappa, io com'è il segnale lì da te? Con questo appare sei 9 e 15. Così forte? Non so, infatti stanno arrivando molto, non pensavo arrivassero così furti i segnali. Io adesso metto l'altra radio per curiosità, aspetta un attimo. Lei è in locale, sì, però dai. Ma arriva Santiago 2. Santiago 2, ah vabbè, perché c'è più distanza, ecco perché arrivava 9.10, Robert, di solito è a fondo scala qua. Sto usando una antenna di 40 metri accordata in 27. Ieri qua arriva 9, forse oltre 9.20 mi sa. Sì, ma no, qua 9.40 arrivava. Con la verticale però, yeah. Adesso sono in verticale, come arrivo? Beh, sei oltre 9.20, sei quasi sul 3. E da voi è cambiato qualcosa? Fondo scala. 9, quasi 9.40 Radio 5. Da voi poi è tutta un'altra musica questa, no? Tutta un'altra modulazione anche. No, dico, la modulazione è tutta diversa, quell'altro era un altro apparato, nato per altre cose, ma la laterale fa da molto mattano a un di gente, lo sai quanti controlli mi danno, dicono, e la modulazione è spettacolare. Me l'aveva fatta sentire Claudio Di Muro, confrontato con TS2000, un altro pianeta, c'ha una modulazione, sembra valvolare quel 9.40, magari in AM non va bene, non rende, però in banda laterale dà paura, me ne accorgo come i rapporti, appena mi sentono mi conoscono già subito dalla modulazione. Hai dei picchi mostruosi di modulazione. Ma con questa, io non sto parlando di questa, io parlo quella di prima, era il 9.40 ed ero in orizzontale con un dipolo per i 40 metri accordato. No, il dipolo qua arrivi male perché sicuramente è puntato da qualche altra parte, non verso, diciamo, Monte Basso. Sì, vabbè, naturalmente. Poi c'era, all'inizio stavo uscendo con quello degli 80 metri, infatti accordato, e c'avevo Claudio che mi arrivava a 9.20. Infatti ho detto, cavolo, ogni segnale, non è cambiato niente. Poi ho messo quello di 40 e si sono tutti abbassati i segnali. E poi vabbè, non ho accordato, perché se non accordi in trasmissione non va niente. Questo è il solito radio che utilizzo io, però il microfono è l'MC50. No, per età diceva, come è cambiato il dipolo, qui ha variato pochissimo il segnale, quasi niente. Scappa, però con questo già c'è un maddubarezzo, no? No, questo è spaziale questo. C'è la Mantova adesso. Sì, adesso sono con la Mantova. Ciao Franco, comunque non ti ho salutato, sei entrato, cioè, no, ma per maleducazione non mi sono dedicato a salutarti. Ok, ben risentito anche a te, di nuovo a te Franco, poi farà girare per Antonio e per Marco. Sì, calma, sì, no, anch'io sono entrato poc'anzi in banda laterale, un po' a gamba tesa anch'io. Saluto Roberto, saluto Antonio, Marco e anche Claudio vi ha dato via sicuramente. Ciao Marco. Sì, Claudio credo sia andato a mangiare. Che dire? Sì, centratissimi, voi due centratissimi, vabbè, per via degli apparecchi. Claudio mi ha detto che era altrettanto centrato. Franco, credo fosse Luca, lo sai Fra, credo fosse Luca del Monte. Non ho fatto in tempo, infatti, perché poi siamo passati in AM, non ho fatto in tempo nemmeno a centrarti, per vedere dove eri, quanto eri spostato, dai. Vuoi provare? Oddio, non me lo dà numericamente, ma sapere almeno a quanto spostare la manopola, dai. Se vogliamo provare, rapidi. Proviamo, dai. Sempre su questo canale. Comunque Marco, tu eri perfettamente centrato 00 con 940 e quello è perfetto perché è allineato e ho fatto delle prove proprio al millesimo. Magari non posso dire lo stesso di questo, ma quello là eri perfettamente centrato. 940 è una bomba come centratura. Sì, sì, allora il bello dei President che escono di fabbrica centrati, invece 3.009 li buttano fuori così, a cacchio di cane. Vabbè, ma non significa niente, perché insomma la larghezza di banda è molto larga, della banda cittadina, in 27, rispetto ad altri tipi di coso, diciamo sono fatte per utilizzo diverso, dai, vai, se lo provi in maniera amatoriale, basta che ti sposti appena un po' distorci la voce, ma qua il baracchino riceve abbastanza largo. Provo USB veloce con Franco. Ok. Come mi ascolti a me il clac con questa radio? Benissimo, alla grande, no, non ci stanno problemi. Se non esce bene questa, allora te l'ho potuto. Ciao Franco Binario, buonasera, ben ascoltato. ST920 della IESO, microfono MD100, cambio. Benissimo, benissimo, segnale ottimo, la radio ottima ugualmente. Antonio invece deve abbassare un po' il microfono perché è troppo forte, qua. Va bene, dai, KK. Bene, mi senti Claudio, ecco da quelle coordinate. Manca non ha tanto, sei centratissimo, decimale 00, la radio è perfetta, il segnale 9P30. Ciao, va bene, dai. Ma con che radio stai usando, Anto? Oh, il K. Il 43. Quell'altro, dai, ho capito, no, quindi sei perfetto anche tu. Franco, ci avete utilizzato una radio fortissima, molto, molto forte, Franco ha abbassato un pochettino, va molto meglio rispetto a prima. Marco è bella, naturale, sembra in AM, pulita, senza troppo combattimento, dai. Adesso passo col 140 in SSB, vediamo se esce bene. Sono curioso, dai, la vediamo la differenza. Ma c'è qualcuno sotto che chiama? Avanti, chi chiama qua, canale 10? Oh, c'è una ricezione questa radio. Non li sentite questi sotto? Beh, io no, ho abbassato ancora, vabbè, va meglio? O era meglio prima? Però adesso mi sembra spostata, se fa un passaggio più lungo. Magari quando scala questo un po' si sposta, 1, 2, 3, prova, modulazione, prova. Sì, è un peluzzino, dai, ma è tollerabile, dai, già va bene, comunque ho provato a centrarti di qualche chilo e niente di più, dai. No, sento sotto, guarda ciò, e non c'è QRM, questo non prende QRM col dipolo, però ascolto, segnali 1, Santiago 1, mai sentiti di vita mia qua. E ci sono questi che sono spagnoli sotto parlando. Vediamo un pochino, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, c'è qualcuno che mi sente? È la voglia che ti sento, Cla. La cosa è un MC60 questo, Cla. Sì, questo è il 140 con sempre l'MC60, com'è? Più bella, molto più bella, questa è veramente una radio da paura. Bella, questo 140 è uno spettacolo, va veramente molto molto bene. Dai, è una bomba, questa radio è da paura, bellissima, naturale, sembra un valvolare. Bella amplificata, chiara, centrata, bella. Perfetta, la modulazione è bellissima, proprio come piace a me. Non è di a fare rumore, questa è naturale, sembra la tua voce naturale. Bella, sono senza processore, così invece col processore inserito, troppo forte. No, non è cambiato più di tanto, un po' ti ha tolto un po' di bassi, però sempre bella, anche senza processore è leggermente più naturale, però va benissimo. Ok, vediamo di nuovo a Franco, vediamo a te, vai Franco. Sì, no, anche qua, sempre ottima radio buona. Anche col processore si sente un po' più corposa, però va bene uguale. Gappa, ottimo per la truppa, allora, va bene. Sono contento che questo 140 funziona bene, diciamo, dai. No, va benissimo, va bello. Prova il 430, ce l'hai ancora? Di accendere, non mi interessa più questo del 430 perché con questa faccio anche attività in 10 metri, capito Robert? Luca, sei tutto spostato, gira il clarifer. Sarà spostata. Un paperino sembra. E ma è l'SB, non mi sembra neanche USB. Ma chi è? Gianni, a chi è? Luca è. Ah, Luca, è tutto paperinato, sì. Vabbè, non so. Fate una M. Questo forse è una M. No, facciamo una M, dai. Facciamo una M. Aspetta, prima di chiudere, con questa antenna quanto arriva il segnale da te? 9.10, 9.15, sì, PFP. Pulita, l'ho un po' flusso appresso, riesce a uscire anche così? No, va bene, senza nessun fruscio, roba, ottimo per la truppa. Ok, andiamo in AM, vado con l'altra radio però, dai, ok, qui cambio radio. Ok, non c'è problema. Hola, ciao, bomba, ya. Luca. Cucariello. Cucariello. Ma è centrata proprio perfetto, 140, hai visto? Tutti e due una bomba sono. Vabbè, quello là è un digitale, ma questo è un cazzo, parece analogico, gli anni che ha è perfetto. Eccomi. Chi è che è uscito, che non è uscito in radio? Ola, sta uscendo? Adesso sì. Ho dovuto abbassare un po' di modulazione. Ola. Chi è questo? C'è qualcuno che non esce? Ah boh, non so io. Se esce siamo qua. Se non esce vuol dire che non sta uscendo. C'è che è tuo ruolo, è quella tua di tutto importante. Non lo sentite? Sì, sì. Ecco, sono qua, Ma non è Luca, già lo so io chi è, non c'è problema. Se vuoi entrare siamo qua, se no rimane alla porta. E qua è molto forte, 9 più 20 era. Sì, fondo scala. Anche qua, oltre 9.30 credo. E vicino a voi è giù, a Bassavalle del Covinas. E allora ce l'ho vicino, ce l'ho là. Per non dire altro, va bene, siamo qua, se vuoi entrare siamo qua, se no non metto la porta. Facciamo metà adesso in culo. Ciao Luca. Regare Ghisso. Ciao Roberto. Amico Doio e altro. Ciao. Se no mi sento in culo, non andavo a quello di più. Stavo con la moglie, Via, cazzo, che gente strana. Non vedi nessuno, ok, muto, completo. Tra gli enti, cazzo, no, parole. Che gusti. E così la ringhi nazionale. Assurdo, io ci mandi due chiacchiere per i fatti loro. E poi tra quello là metteva portante, le registrazioni, ruttava, prendeva in giro. Ma c'è cosa da fare? Stacciappani, poi povero te. Oh Claudio. Fate già la nauda, dimmi fra. Ma è lì che non sento più nessuno. Ma il ponte non funziona più? Capitato, capito, hanno fatto dei lavori, va meglio così, sono più di uno, andava alla fine in galera lì. E che prima facciamo ascolto, invece adesso, sì, come c'è Luca, facciamo un casino, gente si mette le scatole, però faceva piacere ascoltarlo, ma non lo sento più adesso. No, dai, io non ci ho né mai parlato alla radioamatore, neanche in ascolto mi sono messo perché è un ponte che fa schifo. Sì, ma qualcosa di, ogni tanto qualcosa di buono la dicevano, non la raccontavano. Io, ma qua da rincoglioniti, tutti lo lascio aperto. Io che conosco tutte le fatti di quella storia lì, e vabbè, non ha fottuto, io non ci ho mai parlato, non ci parlerò mai. Ma è stato, non c'è più, non è più attivo come neanche già. No, vabbè, è linkato con Villanova a Monteleone. Già lo so, però è spento, non c'è più. È arrivato vetta giù di turni anni bugati, almeno qualcuno le bacia la macchina. Non sento più neanche, come si chiama, il meteo mare. Ma come, 156.423 non c'è più, mi sembra strano. Ma io ce l'avevo memorizzato, no? Lo prendevo, mi sembra, in due canali. Non lo sento più. Marco. Eia, oh, che fiacca. Ragazzi, io stacco, tanto adesso preparo la cena. E ci sentiamo, ok? Buona serata a tutti. Ciao Luca, ben entrato. Ciao Antonio, Claudio, Franco, Roberto, col qualcuno lo chat, no? Dai, un bacio a tutti, ciao. A me, molto drogato. Ciao bello. Anto. Ehi. Vabbè, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Piano piano. Ciao. E cos'è? Lo smitter, povero smitter tuo, lo vorrei comprare. No, gli ho messo un cuscino a fondo scala, così non si faceva male, poverino. Ma troppo forte in modulazione. Poco fa in banda, troppo forte. Infatti io ho passato perché gentilmente me l'ha indicato Roberto. No, adesso troppo forte la modulazione. Beh, qui si è forte. Potresti abbassare tranquillamente alla grande. Ci picchia, ma è raccabilizzato. Qui va meglio. Abbassa, abbassa. Sono rientrato? Sì, Roberto. Comunque c'è coso, chi è che ha detto che non c'era il coso dei bollettino del mare? Io, aspetta un po', com'è la frequenza? Aspetta, non me lo ricordo. C'è lo S5, si è abbassato un po' il segnale, era S9, adesso è S5, è un po' più basso. Aspetta, voi avete parlato di due, com'è la frequenza, Roberto? 156,425. Adesso controllo, va, magari riapparso. Ma è molto più basso del solito, io ho l'antenna esterna in alto, non è fortissimo, S5 più o meno, vabbè che quello è molto avaro perché ti ha dato diversamente il 7000, fai che sia con una radio normale sarà un S7, dai. Ma come funziona quel meteo marino? Non è dal mare? Ti dà le previsioni del mare, ti dice mare di Sardegna, mare di Corsica, mare terreno occidentale, mare Adriatico, mare Ionio, ti dice il vento, la velocità del vento, la direzione, il mare, l'altezza in base alla scala Buford del vento, la scala, come si chiama la scala, insomma come la metto, scala Buford del vento, nel mare, scala, non me lo ricordo. Comunque ti dà le altezze delle onde e poi la visibilità, ti dice se buona, scarsa, gli avvisi di burrasca ti dà, diciamo l'estate non è, se c'è qualche oggetto in mare ti avvisa eccetera. A scala aerea, a scala aerea, 156,425 la frequenza. No, qua non arriva più. Vuol dire che c'è il segnale basso, perché in digitale arriva la Cagliari il segnale, non c'è più la radio costiera produttore. Io sto dicendo, è analogico, No, in digitale, cazzo, tu sei rimasto indietro. No, c'è in digitale, la sua è digitale, analogico c'è, lo sto ascoltando io in diretta. Molto più basso, adesso sarà con una radio, diciamo, di quelle normali, pure S7, perché arrivava 9+20 qua. Adesso sta arrivando con l'ICR7000, arriva S5. Sì, è quello c'è niente, anche a me mi arriva sempre quello, S7, S8, S5. In analogico, no, vabbè, già stanno trasmettendo, fra, sei tu che c'è l'antenna corta, mettila nella scala aerea. Io lo sentivo col portatile, quello piccolo. Sì, io sono col portatile, tu. Cappa, già lo so già come funziona quello lì, però magari non sapevo che c'era il ripetitore a Montalbano, pensavo addirittura che erano dalle parti del mare. Ciao Franco.